Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Ormai lo sappiamo, la plastica è ovunque, ce n'è un'isola in mezzo all'oceano, la si trova sulle spiagge, nello stomaco dei pesci e se ne rilevano persino tracce nell'acqua minerale. Ridotti infatti in frammenti sempre più piccoli, il cosiddetto mare in litter, i rifiuti plastici finiscono prima o poi in tutti gli ambienti e di conseguenza anche in tutte le catene alimentari. Ma come fermare gli sversamenti di plastica in mare e come fare almeno fin dove è possibile per rimuovere la plastica che è già finita nell'ambiente? Ne parliamo con Loris Pietrelli del Dipartimento di Sostenibilità Ambientale dei Sistemi Produttivi dell'Enea della Casaccia. Buonasera, buonasera Pietrelli, bentornato a Smart City. Ciao, buonasera. Dico bentornato perché Pietrelli ci aveva già raccontato come utilizzare la Poseidonia, in questo caso spiaggiata, no? Molto meno problematico come rifiuto. Allora, Pietrelli, voi intanto avete fatto un'attività di caratterizzazione di questo cosiddetto marine litter e soprattutto del beach litter, quindi quei rifiuti plastici che finiscono poi per arenarsi sulle spiagge. Che cosa avete trovato? Sì, esatto. Alla conclusione della campagna di Goletta Verde dell'anno scorso abbiamo caratterizzato rifiuti di plastica raccolti un po' su tutte le spiagge italiane e il fine era quello di caratterizzarli per avviare poi uno studio sui processi di riciclaggio. Abbiamo trovato sostanzialmente polietilene e polipropilene, che fra l'altro sono anche i polimeri più venduti, ma abbiamo trovato anche PVC, il PET, quello delle bottiglie, poi abbiamo trovato polistirene e quant'altro, un po' tutti i polimeri. Ma la cosa veramente interessante è che il 70-80%, a volte anche di più, di questi polimeri è di tipo termoplastico, quindi questo significa che ci facilita il processo di riciclaggio. Perché questi cosiddetti polimeri termoplastici sono quelli che si possono fondere e riforgiare, diciamo così, a cui si può ridare forma semplicemente con una fusione. Esatto, no? sì esatto, con temperature abbastanza basse, intorno ai 150-180 gradi, è possibile riottenere dei manufatti che possono essere, certo, flaconi per detersivi, piastrelle, piuttosto che oggetti di arredo urbano tipo le panchine, insomma. Ecco, quindi parliamo di un rifiuto che una volta raccolto può, diciamo, seguire la strada normale dei rifiuti di origine plastica, delle plastiche, del riciclo della plastica. Sì, esatto, diciamo che la strada più corretta sarebbe quella di inserirli poi nella filiera dei rifiuti solidi urbani, cioè metterli nella frazione plastiche della raccolta differenziata, quindi a quel punto si avvia il processo di recupero del singolo polimero, quindi del polietilene, del polipropilene e quant'altro. Sì, insomma, si ottengono frazioni molto pure, fino al 99%, insomma. Insomma, una volta raccolto questo marine litter potrebbe persino essere una risorsa. Il problema diventa a questo punto la raccolta. Come siamo messi da questo punto di vista? Sì, infatti hai ragione. Paradossalmente il riciclaggio non è un grosso problema, mentre invece il problema è la raccolta, perché ci sono problemi di tipo normativo, di tipo gestionale anche. Non è facile raccogliere le plastiche lungo le spiagge. Ecco, perché per quanto riguarda le plastiche ancora in acqua, tutto sommato qui, almeno da un punto di vista tecnico, non è così difficile affrontare l'argomento, no? C'è un aspetto economico, indubbiamente, ma ci sono dei progetti. Sì, ci sono vari progetti in giro per il mondo, si parla soprattutto di mettere dei cordoni, dei grossi salsicciotti in grado di trattenere questi rifiuti galleggianti. Ci sono anche delle esperienze in Italia, in particolare c'è una società che sta tentando di mettere questi salsicciotti alla foce di alcuni fiumi per trattenere questi oggetti che vengono trasportati dai fiumi, perché ricordo sempre che il problema è a monte nella gestione dei rifiuti. Certo, certo. E poi ci arriviamo. Invece dicevamo delle spiagge, delle coste, lì è decisamente più complicato. Beh, complicato perché raccogliere, pulire le spiagge con mezzi meccanici può provocare dei seri problemi all'ecosistema dunale, perché esso rimuove, diciamo, una quantità significativa di sostanza organica e soprattutto un numero molto elevato di invertebrati che formano poi l'alimentazione, la catena alimentare di molte specie che frequentano l'ambiente dunale. È chiaro che se devo usare un sistema meccanico di pulizia in una spiaggia cittadina non ho grossi problemi, ma se devo fare una pulizia meccanica in una spiaggia isolata, in un ambiente dunale sano, rischio di fare dei grossi danni, insomma. Quindi possiamo concludere che forse oggi c'è bisogno anche di una tecnologia in questo senso, qualche sistema di separazione più raffinato che consenta di fare pulizia senza danneggiare l'ecosistema. Ci vorrebbe, perlomeno, farebbe molto comodo. Dunque, veniamo invece a come si può cercare di evitare il problema. Naturalmente dobbiamo smettere, abbiamo detto, di rovesciare plastiche in mare, e va da sé che bisogna migliorare sul lato culturale, bisogna prendere tutta una serie di provvedimenti per evitare questo. Però diciamo che per la plastica che alla fine comunque finisce, diciamo, perlomeno nel sistema di raccolta fognaria, per capirsi, no? Lì che cosa si può fare? Si può sicuramente migliorare la gestione dei reflui urbani, la gestione, quindi la capacità depurativa dei depuratori, aumentare l'efficienza. Per esempio, se penso alle microfibre che vengono prodotte dalle lavatrici, che vengono sversate negli impianti di depurazione, molte di queste passano attraverso l'impianto, quindi si potrebbe pensare di rivedere il processo di depurazione, per esempio aumentando i tempi di sedimentazione, oppure mettendo a monte dei sistemi di filtraggio più efficaci. Oggi addirittura i cotton fioc passano attraverso gli impianti di depurazione. Ecco, proprio i cotton fioc, diciamo, sono un oggetto al quale avete dedicato particolare attenzione. Ce ne sono molti, sembra, sulle spiagge italiane. Sì, ne abbiamo trovati tanti. L'anno scorso, dopo la caratterizzazione dei rifiuti spiaggiati, abbiamo contato tanti cotton fioc. In particolare, utilizzando le medie dei cotton fioc per metro quadro o per metro lineare, siamo arrivati a un numero esorbitante, circa 100 milioni di cotton fioc giacenti lungo le spiagge italiane. E pensare che questa è una vicenda molto curiosa, perché nel 2001 era stata sancita una regola da una legge che diceva, che vietava espressamente la commercializzazione di cotton fioc non biodegradabili, secondo una norma particolare. E a seguito di un ricorso fatto da alcune aziende del settore, la Corte europea ha accettato questo ricorso per un vizio di forma, e quindi ancora dopo 16 anni, i cotton fioc non biodegradabili sono commercializzati. Questo è un altro aspetto importante, perché fa vedere come alcuni prodotti di uso comune possono essere sostituiti con materiali biodegradabili. Soprattutto se parliamo di quegli oggetti che rischiano di finire in mare. Va bene, grazie Loris Pietrelli. Grazie a te, ciao, buona serata. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata a voi tutti.